Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera. Cominceremo con la Cell Factory, fabbrica delle cellule. Sì, aperta pochi giorni fa a Roma. E poi vi parleremo di droni. C'è stato un convegno molto importante che ha fatto un po' il punto della dronistica dal punto di vista delle regolamentazioni. C'è ancora qualche problemino di regolamentazione, ne parleremo. E infine l'analisi matematica, l'analisi infinitesimale, va in palcoscenico. A teatro. È una gran bella storia, però la definizione in inglese è migliore, perché in italiano è un po' inquietante. Beh, si dice Cell Factory, C-E-L-L, che vuol dire un po' la fabbrica delle cellule, ecco. Fabbrica farmaceutica e così no, via. No, ma è una bella cosa. È una bellissima storia, anzi, è veramente una lodevole iniziativa, per fortuna 100% italiana, adesso la raccontiamo. Settimana scorsa c'è stata l'inaugurazione di questo polo di ricerca in ambito pediatrico all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Qui con noi stasera c'è il direttore scientifico, intanto lo salutiamo, il bentornato direttore Bruno Dalla Piccola. Grazie, buonasera a tutti voi. Benvenuto. Ecco, si è appena inaugurato questo polo pediatrico davvero importante anche dal punto di vista delle dimensioni, sono 5.000 metri quadrati, si parla di un investimento tecnologico e infrastrutturale di 26 milioni di euro, ci dica se sbagliamo, ma è uno degli investimenti più importanti di ricerca in Italia in questo periodo. Beh, credo proprio di sì, un momento così difficile, questo è certamente un investimento grande e poi credo per le dimensioni e per gli obiettivi, essendo orientato fortemente e tutto alla pediatria, è veramente un progetto abbastanza unico anche a livello europeo. Prima dicevamo io e Federico, appunto abbiamo scherzato un attimo sul nome Cell Factory, questa fabbrica di cellule, perché all'interno di questo polo avete inaugurato questa importante presenza di questa fabbrica delle cellule. Ecco, cosa se ci racconta dire? Che cosa vuol dire e anche che importanza ha a livello europeo, perché è una delle poche, insomma, l'ospitiamo qua in Italia. Sì, innanzitutto, sempre per parlare di numeri, è una delle più grosse strutture sicuramente che esistono in Italia, ma anche in Europa, perché è oltre 1200 metri quadrati di una struttura che, come dice la traduzione italiana, serve a fabbricare cellule, nello specifico a fabbricare delle cellule che sono manipolate in qualche modo per rispondere a delle domande terapeutiche. In effetti, essendo il nostro un ospedale di ricerca, un istituto del cuore scientifico, noi dobbiamo fare delle attività di ricerca traslazionale, cioè che arrivino in qualche modo rapidamente al letto del paziente, e quindi noi dobbiamo rispondere alle domande che ci vengono dalla clinica. Una delle domande che ci vengono dalla clinica è cercare di trovare terapie per un gruppo di malattie per le quali oggi siamo ancora male attrezzati. Quindi in questo settore rientrano soprattutto alcune leucemie, alcuni tumori, anche se la storia delle leucemie va detta è cambiata fortunatamente drammaticamente negli ultimi anni, oggi raggiungiamo per molte leucemie pediatriche un 80% di guarigione, ma ci sono ancora delle forme che hanno della resistenza, quindi noi dobbiamo prendere delle cellule, manipolarle in qualche maniera e far sì che queste cellule manipolate riescano ad aggredire la malattia. Lo stesso principio vale quando noi prendiamo delle cellule, le manipoliamo, le ingegnerizziamo per fare ad esempio della terapia genica. Quindi gli obiettivi nostri sono esattamente di lavorare in direzione di trattamento delle leucemie, in direzione del trattamento di alcuni tumori, mi riferisco in particolare a un tumore pediatrico come il neuroblastoma, e in alcuni settori di ricerca dedicata a malattie molto rare, genetiche, malattie costituzionali, dove oggi è possibile con la terapia genica sviluppare dei progetti che riescono in qualche modo a portare cellule sane all'interno di un paziente che ha delle cellule malate che non sono ad esempio in grado di produrre una certa sostanza. Ecco, lei usava poco fa questa definizione medicina traslazionale che non è ancora arrivata al largo pubblico, ma è quella medicina che già dall'inizio nella ricerca, diciamo di base, però cerca di accelerare tutti i tempi e quindi anche la conoscenza per arrivare a un risultato terapeutico, no? E questo che è un elemento di novità consistente. Sì, questo è un concetto fondamentale. Allora, devo dare atto che differenziare la ricerca di base da sì, questo è sempre sbagliato. È un qualche cosa di molto artificioso, perché anche sì, noi facciamo ovviamente delle ricerche di base, claro. Ma uno dei compiti che forse caratterizzano questo modello molto italiano degli istituti del cuore e carattere scientifico, perché questo ce lo dice l'articolo 1 della istituzione dell'IRS, devi fare eccellenza clinica, eccellenza nella ricerca traslazionale. Forse rispetto alla ricerca che è più demandata, diciamo, all'accademia, all'università, noi abbiamo un compito maggiore di prendere una domanda che ci viene dalla clinica, provare a risolvere il problema e quindi con la nostra soluzione arrivare al letto del malato. E questo vale bene, vale anche per tutta una parte che noi abbiamo introdotto nel nostro polo di nuovo di ricerca che abbiamo inaugurato, che riguarda i nostri laboratori di ricerca. Anche loro fanno una ricerca traslazionale. Le do un esempio: noi ad esempio siamo fortemente coinvolti nella ricerca di delle basi biologiche di malattie ultra rare che non hanno in questo momento né un nome né una definizione del loro meccanismo. Grande cosa problema. Significa trovare il gene di una malattia ultra rara? Significa trovare un meccanismo, significa sviluppare un test che permette nella famiglia che ha il problema di fare una consulenza genetica mirata, quindi se c'è una ricorrenza offrire poi una successiva gravidanza, una diagnosi prenatale se necessario, e se è possibile cercare di avere un sistema di presa in carico che è più appropriato e più misurato su quel difetto specifico che è legato a quella malattia. Andiamo anche un po' più verso la medicina personalizzata oltre che traslazionale. Assolutamente sì, e devo dire che su questo argomento noi siamo particolarmente sensibili, perché il termine di medicina personalizzata è un po' usurpato, è un po', se ne parla un po' troppo e un po' vanvera. I veri modelli di personalizzazione della medicina oggi in senso generale, prendendo anche le patologie dell'adulto, sono molto poche, però vi voglio citare un esempio di medicina personalizzata su cui noi stiamo lavorando, sì, che invece è un problema molto comune. Parliamo dei bambini sovrappesi e bambini obesi. I bambini sovrappesi e bambini obesi hanno nei 2/3 dei casi una evoluzione verso una degenerazione grassa del fegato, la steatosi epatica, che se non trattata e non presa per tempo può andare in steatoepatite e poi anche in cirrosi del fegato. Noi abbiamo identificato attraverso la nostra ricerca una serie di marcatori genetici, di variazioni genetiche che predispongono il paziente a questo tipo di evoluzione verso l'accumulo di grasso nel fegato e quindi tutte le complicazioni. E quindi noi abbiamo messo a punto un sistema facilissimo di screening sulla saliva dei bambini, in modo tale che sappiamo coloro che hanno questo rischio e quindi una malattia che nelle prime fasi è irreversibile, identificato il soggetto rischio, si può tornare indietro, naturalmente con raccomandazioni di stile di vita, in primo tutto la dieta, ma anche può essere l'attività fisica e anche la supplementazione di qualche farmaco che consente al processo di regredire. Questo è personalizzare, perché la personalizzazione è anche in termini di risposta alla terapia. Questi test misurano non solo chi ha rischio, ma chi risponderà meglio all'eventuale trattamento. Questo è un piccolo esempio, ma che si dice che anche questo può diventare, sta diventando traslazionale. Ecco, queste soluzioni, queste cure che voi trovate, forse un aspetto interessante da sottolineare è che voi in qualche modo questo tipo di ricerca che fate di base e traslazionale in realtà poi viene utilizzata anche da altri centri, da altri ospedali, da altri istituti pediatrici che tutta questa parte di ricerca purtroppo non ce l'hanno perché non hanno risorse e mezzi. Ma assolutamente sì, perché quando esce un risultato scientifico, il risultato scientifico poi viene pubblicato, viene divulgato e diventa di dominio pubblico e disponibile a tutti. Allora, ripartendo dalla Cell Factory, la produzione di cellule ingegnerizzate che noi facciamo è in primo luogo per rispondere alla nostra domanda interna, ma anche per essere trasferite presso altre strutture che possono aver bisogno delle stesse esigenze. Lo stesso vale per i risultati che vengono dalla nostra ricerca. Quindi noi abbiamo addirittura anche un'altra presunzione in tutto questo grande progetto. Siccome abbiamo una struttura veramente ben attrezzata, noi speriamo anche di superare un po' quella cosa che spesso viene citata un po' in maniera retorica, che è la fuga dei cervelli. Speriamo che una struttura di questo tipo sia accattivante per i ricercatori italiani, ma addirittura possa importare qualche ricercatore dall'estero. Io voglio ricordare che l'ospedale Pilare Bambi Gesù ha una rete estremamente disseminata, soprattutto in paesi come la Cambogia, il Vietnam, col Centro America, quindi strutture presso le quali noi in primo luogo abbiamo portato assistenza, ma dove qualcuno ci incomincia a chiedere di formare dei ricercatori. Credo che questa sia un'opportunità anche per importare persone dall'estero e per formarle con il modello del Bambino Gesù. Va bene, quindi va davvero in bocca al lupo, grazie per la vostra ricerca. Ho la sensazione che ci risentiremo, soprattutto per raccontare quelli che sono i risultati che verranno fuori da questo polo pediatrico. Grazie. Speriamo di poter divulgare delle buone notizie. Ma senz'altro, grazie dalla Buon piccola. Lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera. Cosa arriva a voi adesso? Le notizie dal traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il nostro collega Michele Manghi è stato a Drone Italy, grande kermesse con droni di tutti i tipi. sì, praticamente c'erano apparecchi, diciamo così, a pilotaggio remoto, praticamente di qualsiasi specie e misura, quale ali fisse, quadricotteri, ottocotteri sono con otto eliche. Ma anche piccole imbarcazioni, diciamo, a pilotaggio remoto, che possono andare sui fondali per fare mappature e monitoraggio. E con questi droni ormai si fa tutto. Si fa tutto, dall'agricoltura alla geologia, ci riportano immagini aeree per qualsiasi tipo di scopo. Ecco, il nostro Michele Manghi ha sentito Giovanni Torre di ENAV, che è l'ente nazionale assistenza del volo, perché ancora qualcosa sulla regolamentazione del volo di questi apparecchi ancora c'è. Sentiamo. Oggi qua parleremo e parlerà di droni, quindi veicoli pilotati in remoto o in modo live o in modo preprogrammato, che svolgono una missione e tornano a terra tipicamente con dei sensori che possono essere di vari tipi a bordo. Fino a poco tempo fa non c'era un regolamento veramente operativo. Alcuni paesi, se non sbaglio, si erano, diciamo, affidati all'assicurazione dal punto di vista di responsabilità civile degli operatori, che dovevano rimanere sotto delle certe quote, per il resto era campo libero. Adesso qua che succede in Italia? Succede che l'Italia è riuscita a produrre anche un documento regolamentare interno per quella parte di competenza di ENAC che non è andata ad oggi ad EASA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza, e praticamente questo può consentire e consentirà in Italia di poter avanzare in questo mondo che è un, diciamo, un ambito specifico di quello che è il più largo ambito del mondo dell'automazione e del controllo remoto dei sistemi. Grandi player commerciali, da Amazon a Pizza Hut, pensano e addirittura sviluppano prototipi per la consegna di oggetti in ambito urbano. Che, diciamo, per me che sono un profano, dico, questa è la roba più critica che puoi fare dal punto di vista della responsabilità civile, danni potenziali che puoi fare, insomma, un disastro. Com'è il, diciamo, il quadro che lei vede all'orizzonte? Dividerei l'aspetto in due ambiti: l'ambito europeo, dove necessariamente per poter crescere e poter favorire, facilitare e supportare questo settore dovranno essere fatte delle norme adeguate, però tenendo conto sempre del principio norme semplici per obiettivi importanti, quindi per far crescere il settore, per realizzare qualcosa. Quindi una norma non che vieti un'attività, ma una norma che serve a guidare gli operatori ad operare in sicurezza e regolarmente. Dall'altra parte è importante in questo mondo anche industriale e commerciale che il nostro sistema paese, seppur verso l'Europa, sia un prime, sia di guida, per poter mettere insieme tutti gli attori, per poter formare un sistema Italia che possa anche esportare, possa essere il primo a portare anche verso paesi non dell'Europa, soprattutto per noi verso il mondo del Mediterraneo, il bacino del Mediterraneo, che c'è quello più vicino, soluzioni a controllo remoto, quale i mezzi aerei a pilotaggio remoto, o comunque soluzioni a controllo remoto che potrebbero essere anche applicabili per i piccolissimi aeroporti, per esempio per fornire i servizi del traffico aereo in alcuni casi. Oggi io ho 250.000 euro da investire in una società, di che cosa devo essere certo per poter sbarcare nel mondo dei droni? Di che cosa devo accertarmi? Questo è il grande problema, che un sistema organizzato e coordinato, probabilmente in Italia su questo non siamo stati fino ad oggi molto efficienti. La risposta alla sua domanda però esiste ed è concreta. Per partire, per poter investire a livello industriale, poter decidere una produzione, ci deve essere prima una verifica a monte tra tutti gli stakeholders interessati, di qualcuno che dia dei requisiti operativi da dover soddisfare, quindi che abbia interesse a poter effettuare un servizio, a svolgere un servizio, quindi ci sia un committente che dà i suoi requisiti, da quelli vengono creati poi dei requisiti operativi, vengono creati dei requisiti tecnici e regolamentari per consentire poi di soddisfare il committente. C'è di quello che è successo fino ad oggi. Diciamo che l'Italia perde quella possibilità di essere di guida, di poter avere un sistema compatto che possa vendere un sistema a chiave in mano all'estero, e quindi c'è una perdita di chance. Se voglio fare un regalo, ma importante, a mio figlio, posso andare a comprarmi un drone da 1.500 euro con cui poi ovviamente gioco io? Ecco, su questo secondo me sì, se si è presa già coscienza che il drone potrebbe far avere a suo figlio informazioni anche particolari che non dovrebbe avere, che sarebbe pericoloso avere, che potrebbe essere utilizzato in luoghi dove non può essere utilizzato e forse un ragazzo, un minore potrebbe non avere conoscenza di quello che è l'utilizzabilità degli spazi aerei, la pericolosità dello stesso. Quindi sicuramente sì, e già si stanno facendo passi avanti con il nuovo regolamento dell'ENAC nell'avendo un registro di questi o comunque una conoscenza di quelli che sono i mezzi aerei a pilotaggio remoto che si devono muovere, chi li muove, come sono assicurati e una preparazione, una conoscenza di quelli che sono poi tutti gli impatti nel momento stesso in cui ci si alza dal suolo. Ho visto allora due scenari. Uno, la bandiera nello stadio in linea portata dal drone, che mi inquieta un po' personalmente, non tanto per l'oggetto della bandiera quanto perché vuol dire che da questo punto di vista siamo completamente scoperti. Dall'altro vedo il drone che va a fare un monitoraggio su una frana dove sarebbe impossibile mandare un operatore. Lei però ha toccato un punto veramente importante, l'ultimo da aggiungere, l'ultimo pilastro veramente da considerare, che sono le esigenze di sicurezza e di difesa. Soprattutto in una fase di transizione, una fase di avvio, sarà importante trovare la metodologia come garantire e assicurare, contribuire ad assicurare che vengano garantite sia la sovranità del nostro paese e comunque le esigenze di sicurezza nazionale. Quindi ritengo che soprattutto nella fase iniziale ci sarà la necessità di dover trovare delle soluzioni dove potremmo far movimentare a non numeri enormi di mezzi aerei a pilotaggio remoto contemporaneamente, poter avere la certezza di chi si sta muovendo e dove si sta muovendo con ground control station di controllo di questi mezzi che magari non siano operate da chi che sia. Ahimè, non ci possiamo fidare purtroppo oggi di tutti, visto quello che è l'andamento. E sotto il profilo del rischio che lei presentava prima del mezzo aereo a pilotaggio remoto che porta la bandiera all'interno di uno stadio, quello che è da prevenire non è, quello da interrompere non è la tecnologia, quello da prevenire è il fattore delinquenziale. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Pacta dei Teatri, un gruppo teatrale che da anni crea storie di palcoscenico che nascono da contenuti scientifici, a volte elaborando testi reali prodotti da scienziati, ma spesso utilizzando i concetti della scienza come generatori di metafore, di immagini, di parallelismi. In Appuntamento al Limite, di questo stiamo parlando adesso stasera, in scena al Teatro Oscar di Milano fino al 23 novembre, il concetto matematico di infinito, di successione infinita, si trasforma per esempio in una strana situazione nella quale un regista costringe i suoi attori a ripetere in continuazione una stessa scena che può avere continue variazioni, ma la stessa rimane. Va bene, ok, riprendiamo da dove volete. Va bene. Forse farei meglio a tornare in camera a controllare. Anna, ti prego. Solo un istante. Anna, ora basta! Io trovo profondamente inappropriato che una moglie sulla soglia del proprio matrimonio mostri una tale mancanza di fiducia per suo marito, profondamente inappropriato. Chiedo scusa. La fiducia reciproca è alla base del sacramento del matrimonio. Ha ragione, chiedo scusa. Tanto più che la servitù ci sta guardando dal cortile, chissà che cosa stanno pensando. Non volevo dubitare delle sue parole. Il paure è stato caricato, punto e basta. Mi dispiace ancora. Non ne parliamo più. Ok, adesso guardatemi negli occhi, ditevi tutto quello che pensate uno dell'altro. Smettila di trattarmi da serva. E tu non mi mettere in imbarazzo davanti a tutti. Ma che ti credi di essere? Ma tu non ti avrei sposato dire? Neanche se fossi stato l'ultimo uomo sulla faccia della terra. Ma smettila. Sei una povera. Fai schifo, ti odio. Ok, l'odio, tiratelo fuori. Il gruppo, Valentina Colorni alla regia, testo di Riccardo Mini, in scena Riccardo Magherini, Vladimir Todisco Grande e Maria Eugenia D'Aquino. Sono stato alle prove e ho parlato con Maria Eugenia D'Aquino. Adesso voi state per entrare in scena tutti e tre, vi mettete proprio sul proscenio e incomincia un dialogo tra di voi serrato. E chi sono questi tre? E questi tre personaggi in realtà sono una sorta di crasi che l'autore ha composto immaginando citazioni di Newton, di D'Alembert, di Berkeley, che un po' si sentono anche all'inizio, quindi sono come i momenti di intervallo dello spettacolo in cui tre attori, tre personaggi danno voce a quei pensieri che stanno dietro al calcolo infinitesimale, all'infinito, eccetera eccetera. Ma sono citazioni vere? Sono citazioni vere mescolate, sono diciamo rielaborate per costruire questo dialogo, e trattano appunto, come si sentirà, del fermare l'istante, perché tutto un po' ruota intorno al fermare quest'istante. Provate ad immaginare di fermare un istante e di poterlo osservare. Che cosa vedreste? Vedrei tutto fermo, immobile. Persone congelate a metà di un sorriso o di un grido. Acqua che esce da una bottiglia ma non riesce mai a raggiungere il bicchiere. Fumo di sigaretta che sembra scolpito nel marmo. Non gente, ma statue di gente. Migliaia di azioni iniziate che non si concluderanno mai. E poi silenzio. Il più assoluto silenzio, no? Perché il suono è un movimento, giusto? Sì. Il suono è un'onda che si propaga nell'aria, dunque se non c'è il movimento non c'è il suono. Giusto? Giusto. Beh, chi potrebbe mai dire che abbiamo ragione? In fondo il tempo non l'ha mai fermato nessuno. Nessuno ci può dire come potrebbe essere. E poi provate a immaginare quanto potrebbe durare questa vostra esplorazione all'interno di quell'istante. Un secondo, un minuto, un mese, un secolo? Dentro quell'istante tutto questo tempo non esiste. Molto probabilmente potrebbe succedere che se noi fermassimo il tempo ci fermeremo anche noi e la nostra memoria, e non saremo più in grado di percepire alcunché. Forse è proprio esattamente come sta succedendo in questo momento, mentre sto parlando, una infinita sequenza di istanti perfettamente immobili che noi non siamo assolutamente in grado di percepire, e tra un istante e l'altro un'infinita mancanza di tempo. Posso dire che lo spettacolo è l'ultima nostra operazione sul teatro in matematica del nostro progetto, sul calcolo infinitesimale, il calcolo sublime. Questo già basterebbe a far scappare tutti, ma invece no, non scappate, perché veramente cerchiamo di trattare il calcolo sublime come un dei momenti della nostra vita. Quelli che si vedranno in scena sono due storie parallele, completamente diverse, con ambientazioni diverse, ma che parlano in qualche modo della vita. E una di queste riguarda anche uno che col calcolo sublime c'entra parecchio, e che è Isaac Newton. Però c'è una cosa da dire, che non c'è solo lo spettacolo, diciamo, in questa confezione del teatro in matematica di quest'anno, ma dopo lo spettacolo sul palcoscenico si alterneranno filosofi, letterati, attori, registi, eccetera, eccetera. Tutte le sere ci racconteranno qualcosa. Di che cosa? Dell'infinito, di Newton, degli aspetti di Newton inconsueti, addirittura si collegherà Shakespeare a Newton e Leibniz. Insomma, ogni sera ci sarà qualcosa di diverso sul palco dopo lo spettacolo. Möbius è finito. Chiara, sto scrivendo una commedia in cui tu sarai Isacco Newton e io Madame Curie. Oh, che bella idea! Speriamo che qualche impresario all'ascolto colga l'idea, perché di sicuro è successo. Ah, sicuramente. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao!